America 24 di Mario Platero. Buongiorno e benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. Donald Trump prosegue con le sue nomine. Ieri ne ha fatte alcune, le vedremo più avanti, e sono delle nomine che tra l'altro rappresentano in modo indiretto, quantomeno, uno specchio di alcune sue vocazioni politiche. Per esempio sull'ambiente ha scelto Pruitt, che sappiamo non essere esattamente favorevole alle energie pulite. Insomma, il personaggio Trump comincia a prendere forma oggi, è una delle giornate in cui vale la pena di focalizzare come potrebbe essere questo presidente, perché in realtà non lo conosciamo, non lo conosce nessuno. Io credo che non lo conosca neanche Time, che gli ha dedicato la copertina come persona dell'anno. Time Magazine has just named President-elect Donald Trump its 2016 Person of the Year. Ecco, avete sentito l'annuncio, perché forse i settimanali vanno male, è vero, vanno male, anche Time non è più quello di un tempo. Però, insomma, la copertina mantiene il suo fascino, la copertina di Time, e la scelta, devo dire, è giusta, perché Trump ha portato una rivoluzione politica in America, ha spiazzato democratici, ha spiazzato i suoi compagni di partito repubblicani, adesso sta spiazzando analisti, osservatori, non so, riceve uomini d'affari, chiude un accordo e lo annuncia su Twitter, per esempio con la SoftBank. SoftBank giapponese investirà 50 miliardi di dollari in America per creare 50.000 posti di lavoro. Vediamo qual è la motivazione di Time. Dice: per quelli che credono che la sua vittoria sia un bene, la vittoria di Trump rappresenta una strigliata tardiva a una classe di governo arrogante e trincerata dietro vecchie poltrone e vecchi poteri. Per quelli che invece credono che la vittoria di Trump è negativa e lo sarà nel male, secondo loro la distruzione possibile si estende a quelle che sono le conquiste dei diritti civili, per arrivare fino a una politica velenosa, avvelenata, fino a un ritorno possibile, potenziale, al razzismo, al sessismo e al nativismo. Ecco, la verità, ve lo dicevo all'inizio, è che nessuno oggi sa davvero cosa aspettarsi da Trump, dalla sua amministrazione, e devo dire che la foto in copertina è simbolica. Andate a cercarvela su internet perché ne vale la pena. Si vede Trump seduto di spalle in poltrona e si vede Trump che è voltato con un profilo di tre quarti, che guarda indietro, guarda verso l'obiettivo, ha uno sguardo, devo dire, quasi arcigno, serissimo, non sorride, e con l'occhio destro, che si vede bene perché l'altro è nell'ombra, semichiuso, come se fosse pronto a scattare. Ci sono qui due messaggi, uno per il resto del mondo politico, sia interno che internazionale, e cioè: non mi farò prendere per il naso, fate attenzione perché sono qui pronto a fare di tutto. General Scott Pruitt, to head of the Environmental Protection Agency. Associated Press describes him as a reliable booster of the fossil fuel industry. Ecco, ancora non è formalizzata al 100%, ma la scelta è definitiva, e Scott Pruitt è il procuratore generale in Oklahoma, e sarà lui a guidare la Environmental Protection Agency, la EPA, che è l'agenzia federale per l'ambiente. E Pruitt è un repubblicano, è un avvocato, da sempre è stato vicino ai big del petrolio ed è stato anche, devo dire, l'autore di quella battaglia legale per contenere le politiche ambientali che aveva proposto Barack Obama. Ci ritroviamo insomma con la volpe che fa la guardia al pollaio, perché la EPA era nata proprio per proteggere l'ambiente. Ecco, addirittura il rischio è che Pruitt potrebbe smantellare l'EPA e sicuramente potrebbe togliere certe regole per controllare le emissioni di CO2, per esempio in relazione all'utilizzo del carbone, il carbone per impianti elettrici. Oggi ci sono delle regole molto stringenti sul carbone, molto costose. Potrebbe anche, si dice, stralciare gli accordi di Parigi. Ci riuscirà? Possibile? Non lo sappiamo, anche perché poi Trump in un'intervista al New York Times aveva detto: ma in fondo qualche cosa sull'ambiente dovremmo fare. E sappiamo che lunedì si era incontrato con Al Gore, l'ex candidato alla presidenza democratica nel 2000, e Al Gore è un campione dell'ambiente, insomma, ha preso addirittura il premio Nobel. E sembrava dunque che potesse esserci un'apertura da parte di Trump, però ora la cosa potrebbe complicarsi proprio con questa nomina di Pruitt. Ma Vorrei sentire il parere di un esperto in materia, con cui avevo chiacchierato qualche giorno fa proprio su questo tema, l'amministratore delegato dell'Enel, Francesco Starace, che mi ha fatto un paio di dichiarazioni proprio su carbone e sui accordi di Parigi. Eccolo, ve lo ripropongo. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e la politica energetica americana, non c'è modo che si cambi granché. C'è una lotta sorda in corso da vari anni tra carbone e gas per la generazione termica americana che si sta risolvendo su base puramente economica. Semplicemente il gas costa talmente poco e molto meno del carbone ed è più efficiente, per cui in questo momento questo sta avvenendo. Non credo che ci sia una posizione ideologica da parte del Presidente su questo punto di vista, perché diciamo, il mercato sta esprimendo questi valori. A livello mondiale può darsi che gli Stati Uniti tentino invece di rinegoziare alcuni aspetti dell'accordo di Parigi. Quello può avere un impatto di rallentamento, non di blocco dello sforzo, perché ormai i grossi calibri da questo punto di vista si sono tutti orientati verso una politica assolutamente a favore del contenimento del cambio climatico. La Cina per prima ormai ha imboccato questa strada. Ecco, avete sentito Starace, lui non crede che si possa fare molta marcia indietro su un accordo già ratificato che riguarda 200 paesi. Allora cerchiamo di conoscerlo, vi dicevo, questo Trump dallo sguardo arcigno in questa copertina di Time con l'occhio semichiuso pronto al guizzo. Ecco, secondo me, come ogni negoziatore, Trump parte alto, altissimo, dobbiamo abituarci al souk, al mercato, per poi magari scendere a un compromesso. Ecco, per esempio, ieri un gesto distensivo in termini di nomine è stato quello di scegliere Terry Branstad, che è il governatore dell'Iowa, come ambasciatore in Cina. Ecco, sappiamo che Branstad è un amico di lunga data di Xi Jinping e quindi è un gesto distensivo a 70 anni, è un governatore autorevole, il più longevo della storia degli Stati Uniti, a capo dell'Iowa dal 2001, ma era stato governatore anche prima. E dunque in questo caso il gesto è di apertura. Per l'Homeland Security, per la sicurezza interna contro il terrorismo, Trump ha scelto John Kelly, un ex generale, un marine che ha combattuto al fronte una gran quantità di medaglie. Ecco, poteva andarci Rudy Giuliani, forse, ma Kelly è di gran lunga una scelta migliore rispetto a quella di Giuliani. Ha 66 anni, non è giovanissimo. Il terzo ex generale scelto per un ministero di questa amministrazione, ha passato 40 anni nell'esercito, ha guidato le truppe americane in guerra in Iraq, era vicino al democratico Leon Panetta, ha uno sguardo trasparente, rassicurante, è una grande umanità. Ha perso il più giovane dei suoi figli in guerra in Afghanistan nel 2010 durante un'azione militare. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!